Spogliavi mai, va bene che era inverno, immaginavo ormai com'eri all'interno, di quei vestiti soffocanti, di quelle calze assai coprenti, di quegli scialle avvolgenti, i tuoi capelli differenti, che accendevi me. Va bene che era estate, io non cercavo guai o splendide sudate, ed aspettavo che passasse la fa stagnante dell'estate, soffocanti le giornate di questo agosto ai caliente. In primavera, in autunno, tu non avevi mai ragioni e mi dicevi, mi chiedo, non ci son più mezze stagioni.